progetto che è partito dal fatto che, come tante associazioni, andiamo sempre un po' a vedere gli eventuali bandi, le disponibilità del comune di Bologna, dei quartieri, e il nostro presidente Fabrizio Corazza, dando un occhio alle varie indicazioni che c'erano nei quartieri, ha notato che il quartiere Borgoreno doveva abbattere un albero, e gli è venuta l'idea di contattare il patto per la lettura, al quale diciamo noi aderiamo come associazione equilibristi, e proporre questo tipo diciamo di triangolazione, ovvero che dopo l'abbattimento dell'albero ci fosse la possibilità di montare una cassetta di libri in book crossing, quindi con un accesso consentito a chiunque frequenti quel piccolo giardino, e la possibilità ovviamente di prendere e di lasciare i libri, e quindi diventi insomma dare una nuova linfa, una nuova vita a quest'albero che purtroppo hanno dovuto abbattere per motivi di stabilità. Che tipologia di libri si possono trovare all'interno di questa cassettina, diciamo, e come si possono prendere gratuitamente, come funziona? Allora, innanzitutto diciamo faccio un passo indietro, nel senso, noi come associazione equilibristi quello che facciamo è fare dei recuperi di libri che normalmente andrebbero o destinati al macero o ancor peggio comunque insomma buttati via, e prenderli e dargli una nuova vita, un nuovo percorso. E questo lo facciamo sia con privati, sia con altre istituzioni, anche biblioteche che a volte dismettono magari volumi non richiesti dagli utenti. L'idea è sempre quello, aderendo noi al patto per la lettura del Comune di Bologna, di rafforzare le pratiche di lettura e anche di moltiplicare le occasioni in cui si possa venire a contatto con i libri. Questa è diciamo la premessa filosofica, ma nel concreto noi proprio con le nostre cassette, utilizzando il nostro tempo libero, e diamo la possibilità a chi effettivamente abbia questi libri in più di rimetterli in circolo. L'idea quindi in questo caso era di creare un'aggregazione nel giardino di Via Lemonia dove chiunque possa, quindi non c'è un bisogno di avere la tessera della nostra associazione piuttosto che avere dei permessi particolari. Le immagini che si vedono anche sul sito della Repubblica lo fanno vedere, è una libreria di libero accesso, molto semplice, ben coperta, perché chiaramente i libri devono restare al chiuso. L'idea chiaramente è che siano libri piacevoli, quindi tendenzialmente non troverete, che ne so, libri scolastici, ma piuttosto dei romanzi, e si va direi da ogni genere, almeno il primo rifornimento che abbiamo fatto è molto vario, proprio per provare ad interpretare i gusti di chi sia lì, semplicemente per prendere un po' di sole oppure in attesa, visto che c'è un po' l'ambulatorio vicino. Il progetto proseguirà, troveremo delle altre mini librerie sparse per Bologna? Sì, noi considerate che come associazione equilibristi già da tempo riforniamo di libri tutta una serie di posti, sempre un po' in considerazione che siano luoghi dove bisogna attendere, quindi si va dal classico bar, ristorante, caffetteria dove magari uno nel frattempo che attende la consumazione o ha un po' di tempo può consultare un libro, piuttosto che studi dentistici o gli studi medici. E l'idea appunto, noi l'abbiamo già sperimentata questa postazione sotto i portici in via Pietralata, quindi lì in quel caso c'è una nicchia che molti conoscono e dove abbiamo visto che c'è anche un ricambio, nel senso molti utenti alla fine lasciano loro libri, quindi si è creato un circolo positivo. Chiaramente aderendo al patto per la lettura del Comune di Bologna, attendiamo anche lì delle indicazioni, delle occasioni, come è stata questa di Via Lemonia. Perfetto Alberto, io ti ringrazio per averci raccontato il vostro progetto di piccole librerie sparse per la nostra città, grazie ancora. Grazie a voi dello spazio che ci avete dedicato, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.